Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 31. Parliamo del dare. Potrebbe sorgere una domanda in te. Forse non posso mai pensare alla persona che mi sta dando qualcosa. Naturalmente la persona esterna penserà all'altra persona. Come sai, c'è l'essere interno e quello esterno. L'essere esterno pensa ad Ari, Jack, o chiunque sta dando. Ma l'essere esterno è l'essere con i cinque sensi. Ma tu, quando hai qualcosa a Harry, hai queste quattro lettere a vaia nella tua mente. Così la cosa che dai è perché saranno uniti e non è importante come l'altro riceve. Se lui lo fa in modo corretto o no, non è affar tuo. Supponiamo che tu voglia dare a un mendicante qualche sterlina e lui ne chiede di più, ne vuole 50. Non spettate avere un giudizio. Quello che lui vuole fare con i soldi, forse lui vuole comprare delle bevande o droghe, non è affar tuo. Prima che tu dai, pensa riguardo a questo e quando sei sicuro che non ci sarà giudizio, allora dai, metti i soldi nella sua mano, nel modo come ho detto sopra. Tu dai, la tua mano è Binah, e quello che hai in mano è luce, come luce, eh? È il suo braccio, è il Vav. E la sua mano è Malchut, la seconda Hei. Allora tu unisci l'atto di dare e ricevere in te stesso, senza alcun giudizio su ciò che l'altro farà, quale potrebbe essere la sua intenzione, perché non lo saprai mai. Nessuno può sapere questo. Certamente vedi le persone in televisione e loro dicono di poter leggere le menti degli altri. Sono grandi artisti. Lasciano gli altri credano di poterlo fare. Ma non è possibile. Assurdità assoluta. Nessuna persona, nessuno può pensare o sapere cosa pensano gli altri. Perché questo non è dato a noi. Quando incontri persone e loro dicono che lo sanno, è una commedia, un grande atto di commedia. Ho visto in televisione un uomo, un grande medium, che poteva entrare in un teatro dove erano radunate migliaia di persone. Poteva trovare la persona in cui avevano nascosto dei soldi a sua insaputa. Bellissimo, meraviglioso. Perché non ci insegni questo? Quando lo fai, molte persone verranno alla Kabbalah. Quindi pensano che quando faccio Kabbalah imparo miracoli e poi riesco a legare con una corda una banca o qualcosa del genere. E che vale la pena imparare la Kabbalah. No, miei adorati, nella Kabbalah c'è lavoro da fare. Devi lavorare molto duramente. Devi imparare come dare. Questo è il vero dono di Havaya. Per unire queste quattro lettere, e colui che darà sarà dato. E colui che non dà sarà portato via da lui, anche le cose che non pensava di dover dare. È divertente, non è vero? Ma è veramente in questo modo. Quando una persona si tiene occupata con le leggi del nostro mondo materiale, farà errori. Vuole sempre di più, ma quando impari la Kabbalah, impari a dare e la luce ti insegna a non fare sbagli. Ari ci spiega questo in modo semplice e facile. Permettetemi di darvi un altro esempio. Per questo io uso il denominatore e il divisore proprio come usiamo nelle contrattività. Nelle contrazioni. Guarda questo al disegno. Quando qualcosa diventa più piccolo, il risultato diventa più grande. Quando il divisore diventa più piccolo e ci sforziamo per lo zero, l'immagine intera si sforza all'eternità. Abbiamo già imparato la formula delle cinque domande e le cinque risposte. Lasciami usare questa formula. Ho fatto una formula nel libro. Le cinque domande sono sotto. Vedi il disegno? C'è sempre una condizione in cui possiamo fare uso di queste cinque domande. Cosa? Quando? Perché? Dove? Chi? E sopra ci sono le cinque risposte eterne. Supponiamo che c'è una situazione e non importa cosa e come. Certo che È importante, ma lascio l'argomento per quello che è. Riguarda la domanda che sento dentro di me. La situazione è solo l'innesco per il sentimento dentro di me. E con il sentimento posso usare le domande. Devo usare queste domande. C'è sempre, cos'è questo? Cosa mi disturba o cosa mi fa arrabbiare o cosa mi rende così facile? Tutte queste emozioni possono uccidermi. Perfino la felicità può uccidere una persona. Persone sono morte perché avevano vinto un'enorme quantità di denaro. Quindi anche con la felicità o il piacere faccio uso di questa formula. Cosa? Perché? Dove? Cosa? Quando? Perché, dove, chi? Quando guardi attentamente, vedi che è dentro di te. Tu sei quello che desta l'amore in te stesso. Tu sei quello che desta le emozioni dentro te stesso. Non c'è dramma. C'è solo dramma quando tu non lavori in modo adeguato con questa formula. Con queste cinque risposte eterne tu puoi portarti in conformità. Qual è una domanda? La domanda indica. Può essere una situazione grave e non sai come agire o tu senti mancanza. Quando non ci sono domande, allora non c'è mancanza. Quando ho una domanda, c'è mancanza di sé, desidero una risposta. Una risposta è il riempimento della mancanza. Prova a guardare e vederlo in questo modo. Le domande sono sotto e queste domande mi tengono nell'oscurità. Possono darmi la sensazione di oscurità. Mi trovo in una situazione particolare e le cinque risposte sono sopra la linea. Ah, vedi il disegno. Tutto ciò che è sopra la linea è luce. Sotto la linea c'è mancanza. O in altre parole, sopra la linea c'è il dare e sotto la linea c'è il ricevere. Il riempimento si trova dentro le risposte eterne. Quando provi in ogni situazione a portare le cinque domande in conformità con la risposta eterna, cosa succederà? Tu lasci sparire la mancanza delle cinque domande. Come lo fai? Hai bisogno di forza per fare questo, così puoi portarti in conformità con la reazione che hai ora. Non la reazione del passato, perché quando guardi indietro e rimani nel passato, rifiuti le domande. Devi riempirle con le risposte eterne. E questo può essere fatto solo rimanendo nell'ora. Fare Facendo questo, tu indebolisci le domande portandoti in conformità con le risposte eterne. In un certo modo tu fai un limite. C'è lo sforzarsi per il punto zero. Più porti le tue domande in conformità con le risposte eterne, quando usi la forza che hai dentro di te, le domande si indeboliranno, scompariranno. Il divisore cambia, c'è lo sforzarsi per il punto zero. Cosa significa questo? Più tu vieni a questo punto zero, più sarà riempito con le risposte eterne. E a causa di questo vieni all'esperienza di eternità. Ma sei tu che devi lavorare con le cinque domande e le cinque risposte eterne. Hai bisogno della forza. Lottare per il punto zero. E quando tu fai così, sperimenterai l'eternità. Il significato di Kabbalah è sollevare le domande di cosa, dove, perché, chi, quando, sopra la linea. Sopra la linea hai le risposte eterne. Anche da dentro devi portare le domande sopra, sperimentare le cinque risposte eterne. E per questo tu sperimenti l'eternità. All'interno del tuo essere, sotto la linea, sotto di te ci sono le domande più severe. Tutta la miseria viene da questo punto, che non è ancora stato corretto. Religioni, eccetera, tutto appartiene al sopra della linea. Quel che vedi in una chiesa o in una sinagoga è simpatico. Ci si sente bene. Le persone indossano i loro vestiti più belli. Ma quando tu prendi dal abbigliamento, nessuna religione ha accesso a questo punto. Perché? Perché no? Il tempo non era pronto. Devi venire al punto sotto al tuo ombelico. Le domande si trovano sotto questo punto. Qui ci sono tutti i problemi. E solo la Kabbalah ti dà forza, ti dà il meccanismo per lavorare con esso. Lavoro con esso nel modo giusto. Non con la tua testa, perché se tu fai così c'è la possibilità di diven che diventi magia, idolatria, eccetera. Il wishful thinking. Né l'idolatria. E la magia ha aiutato gli esseri umani. Le religioni ci dissero di stare lontani da questo punto. Non toccarlo, dissero. E questo era anche buono. Ma ora è giunto il tempo di lavorare anche con questo punto. E lavorando con esso realizzi il significato di creatore. Il significato di creazione, meglio. Perché? Il creatore ha creato sia il bene che il male. Entrambi sono creati dal creatore. Egli li creò entrambi. Ogni cosa ha due lati. Vedili come i due lati di una moneta. Quando guardi in questa classe, gli uomini sono seduti su un lato e le donne sono seduti su un altro, su un lato. Uomini sono seduti a destra. E le donne sono sedute a sinistra. Analogamente come la costruzione di due forze dell'universo. O anche in un uomo. Esso non riguarda cosa è buono o cattivo. Anche quando senti qualcuno dire che la forza maschile è buona, sappi che anche l'altra persona è necessaria. Entrambi sono necessari. Puoi vedere questo? Ognuno di noi ha dentro queste due parti. Chiese, sinagoghe, eccetera, erano solite dire state alla larga da questa zona. Dicevano il diavolo è lì. Certo, devi stare attento. Ma cosa significa diavolo? Diavolo significa il tuo egoismo. Il diavolo è il desiderio di ricevere solo per te stesso. Lentamente porterai te stesso in conformità con le risposte eterne. Qualunque sia la domanda, puoi portarla al di sopra. Mai stare al di sotto tira su. Mai stare al di sotto tira su sempre le domande e i tuoi desideri. Perché sopra l'ombelico è la parte dove tu puoi fare le tue correzioni. Non farlo sotto l'ombelico, perché i punti di forza sono molto pesanti lì. Faccio uso del confronto sotto e sopra. Sopra abbiamo la parte buona e sotto c'è la parte cattiva. Sopra abbiamo la luce e sotto abbiamo la miseria e le forze pesanti. Ovviamente questo non è letteralmente. Quello che intendo che sto parlando di punti di forza. E ci sono forze inferiori e forze più elevate, e nella nostra osservanza vediamo sopra e sotto. nelle parole di questo mondo. Ma quando guardi da sopra, allo stesso modo del Creatore, dovresti vedere che tutto è integro. Perché? Ciò che è dentro è integro. E l'essere umano è circondato con il corpo fisico. Ma io sto solo parlando riguardo a cosa è dentro. Non parlo mai del fisico. Il fisico è necessario proprio come l'imballaggio per un astronauta. E quando guardi dentro vedi dall'alto al basso le lettere Yud, Hei, e sotto non c'è male. Il punto è che ancora non siamo corretti, e quando ci dà la sensazione, e questo ci dà la sensazione di miseria. Durante questo periodo un'enorme correzione avviene. Veramente intendo enorme. Quel che era impensabile per i nostri genitori viene alla superficie al giorno di oggi. Attraverso la rottura di tutte le violazioni, stupri ad esempio, durante il Medioevo, non c'era l'attenzione per questo. Ma oggigiorno una donna può andare alle polizie, non solo nel nostro paese, in tutte le parti del mondo. Quel che è stato nascosto viene alla superficie. Non dire che è sbagliato, viene solo alla superficie. Questa è la cosa più importante. Essa viene alla superficie. Deve essere portata da sotto a sopra. Dall'oscurità alla luce. Puoi vedere questo? Un paragone. Visto da sopra, ogni cosa è luce. Sotto la linea abbiamo il Vav e la seconda Hei. È qua dove inizia la correzione. Questa è la co contrazione. Sopra la contrazione non esiste. Ci sono solo contrazioni dal nostro lato. Qualunque cosa esista, ha lo Yud, Hei, sopra la contrazione. E sotto la linea abbiamo Vav e il secondo Hei. La linea è il Parsa. Questa è l'immagine vista dalla creazione. Il Creatore la vede diversamente. Per lui non c'è contrazione. Per lui ogni cosa è uno, integro, completo. Come avai. E naturalmente è lo stesso qui. Solo noi abbiamo il Parsa, la linea che divide. Perché c'è la linea? Dobbiamo portare su la forza per venire sopra il Parsa. Vedi il Parsa come un limite, come un confine. È scritto in Genesi. Il Creatore ha cacciato via Adam e Eva dal giardino dell'Eden. E davanti al giardino dell'Eden lui aveva messo un angelo con una fiamma o una spada a due lati. Questo allegoricamente è il Parsa. Sopra il Parsa abbiamo il paradiso. E sotto il Parsa c'è l'inferno. L'inferno è nella nostra consapevolezza, o ciò che chiamiamo il nostro mondo. Lui ci ha cacciati via dal paradiso. Cosa significa? Questo significa l'esperienza del nostro mondo o l'esperienza dei cinque sensi. Non c'è Parsa dall'alto, e quando nacque Adam non c'era nemmeno il Parsa. Adam è in ebraico, eh? Adam è meglio. Adam non aveva la sensazione di una parsa, ma aveva fatto qualcosa. E così il parsa venne in esistenza. In esperienza. In un certo senso abbiamo il parsa, il paradiso, e c'è Dio. Quale fu l'esperienza con Dio? È scritto G, virgola, D. Abbreviazione in inglese, God, eh? Ma in italiano è Dio. Qual fu l'esperienza con Dio? Loro parlavano con Dio quando erano nel paradiso. Non c'era Parsa. Cosa significa questo Dio? Dio è Avaya. Dove era l'esperienza di Dio? L'esperienza di Dio significa l'esperienza di Avaya senza il Parsa. Perché non possiamo sperimentare Dio? A causa del peccato di Adamo, è dovuto ai peccati delle generazioni dopo Adamo, il Parsa venne in esistenza, in esperienza. Che cosa avevano fatto? Quali erano i terribili peccati che avevano fatto? Prima ci fu il peccato di Adam e Eva, poi la generazione di Mabul, la generazione del diluvio. E più tardi. Te lo spiegherò quando sarà il momento giusto. Tutta la miseria è venuta da una generazione sulle altre generazioni. In un certo senso questa è stata un'enorme reazione a catena. Prima la generazione del diluvio. poi la generazione della torre di Babilonia. E l'ultima generazione è stata la generazione dell'esilio egiziano, tre enormi peccati. Ma più avanti parlerò di più su questo. Ogni cosa deve essere corretta. Quel che accade durante quel periodo, noi lo dobbiamo correggere. Le religioni ci dicono che era nel piano del Creatore, ma non lo era. Persino i cabalisti moderni affermano che era nel piano del Creatore che era necessario per noi arrivare allo sviluppo, ma non riesco a trovarlo nei libri che ho letto. È quando non riesco a trovarlo nei libri. Non te lo dico. Per me quello che ti dico deve essere basato sulle fonti assolute. E per me le fonti sono lo Zohar e Ari.